Nella puntata di oggi di Festivals Backpack abbiamo deciso di raccontarvi di una band che in realtà abbiamo negli anni seguito, raccontato sia con interviste sia sul sito e che tra pochissimo tempo sarà a Bologna al Bonsai Festival e poi di nuovo al Balena Festival, insomma anche per un'altra data che seguiremo da vicino. A questo punto direi che vi introduco gli Eugenio in Via di Gioia e con noi c'è Eugenio. Ciao Eugenio, come stai? Ciao a tutti, tutto bene, grazie, voi? Noi tutto bene, siamo molto contenti di sapere che tra poco tempo insomma sarete qua a Bologna e anche di farti qualche domanda sull'uscita del nuovo album che a noi è piaciuto tantissimo e che sembra che abbia un concept e tutto un progetto intorno, non solamente musicale, molto interessante. Quindi intanto grazie per essere qua con noi per parlarne e poi partirei proprio chiedendoti come sta andando l'uscita di questo disco. Allora, Amore Rivoluzione, un disco che ha avuto veramente una gestazione molto lunga, anche atipica rispetto ai tempi che corrono, perché comunque ci abbiamo messo quasi 3 anni e questo però ci ha permesso di far maturare dei pensieri e delle canzoni delle quali siamo tutti molto molto soddisfatti e anche aver potuto scegliere un nome così impegnativo. Amore e rivoluzione sono 2 parole gigantesche. Noi abbiamo cercato di raccontare la nostra urgenza, che è un'urgenza di cambiamento, ma deve portare con sé delle caratteristiche fondamentali che sono proprio legate alla creatività e a un cambio di paradigma, un cambio di modello, e tutto questo è attraverso le nostre canzoni, attraverso delle azioni collettive che sono iniziate in realtà da tempo, già con Natura Viva, ma che hanno visto, diciamo, il loro apice legato al disco con una grande scritta che abbiamo fatto comparire nella notte del 28 marzo in Piazza San Carlo a Torino. Quella scritta recitava la frase "Ti amo ancora", questa enorme dichiarazione d'amore al proprio pianeta. Quindi c'è una continuità in un qualche modo tra le tematiche di questo disco e quelle che avete creato nella storia della vostra musica, no? Nella vostra discografia, perché anche negli album precedenti, se non sbaglio, la tematica dell'ambiente, della relazione con la terra, con l'ambiente e del rispetto ambientale era comunque presente. Sì, assolutamente. Diciamo che abbiamo voluto ampliare il discorso perché da sempre ci siamo resi conto che è un tema complesso, però finalmente abbiamo avuto l'occasione di affrontare da tanti punti di vista. C'è bisogno di appunto un cambiamento a livello sociale, c'è bisogno di un cambiamento a livello economico, a livello politico, per far sì che poi arrivi effettivamente quello ambientale. Infatti riguardo a questo ti volevo proprio chiedere se anche l'approccio a queste tematiche nel corso dei vostri dischi, cioè l'approccio vostro come band personale, è cambiato. Sì, sì, sono un pochino più, un po' meno entusiastico e un pochino più posato. Ci siamo resi conto che davvero ha sicuramente un elemento che precedentemente avevamo sempre sottovalutato, è quello dell'amore. Abbiamo sempre affrontato i problemi dal punto di vista razionale, però ci siamo resi conto che l'inserimento di elementi emotivi all'interno di una narrazione che è quella della nostra urgenza, che effettivamente nasce dall'emozione, dalla paura, dalla rabbia, dal stesso appunto sentimento di amore verso la nostra vita, ecco, fosse forse il modo migliore anche per trasmetterlo alle persone che ancora non sentivano questo bisogno. Per ora la risposta è molto, molto bella, perché effettivamente arriva a un livello più inconscio questo tipo di narrazione. Prima di tutto devi renderti conto se ami o no la persona che hai di fianco e quindi il pianeta che ti ospita. Dopodiché non ci sarà neanche più bisogno che io ti dica guarda, bisogna cambiare perché sennò moriremo tutti. Sarai tu, sarò io, sarà dire voglio cambiare per il pianeta che mi ospita. Molto bene, un messaggio abbastanza importante comunque. Per quanto riguarda poi la scelta del vostro registro, diciamo, no? Voi toccate dei temi estremamente importanti, lo fate sempre con una grande allegria, una grande leggerezza, no? Sembrano canzoni fatte per divertirsi e basta, invece poi in realtà c'è un grandissimo messaggio dietro. Oltre a questo disco, Amore e Rivoluzione, abbiamo visto che c'è un altro progetto parallelo, il booklet, appunto, Amore e Rivoluzione. E, ti chiederei un po' di cosa si tratta questo progetto e se ti va di introdurcelo. È un progetto editoriale di Comodo, che è una realtà romana, di ragazzi veramente molto giovani con cui siamo entrati in contatto quest'estate e di cui ci siamo innamorati. Questi ragazzi circa 3 anni fa hanno iniziato a distribuire gratuitamente nelle scuole di Roma dei giornali mensili e i ragazzi hanno iniziato a leggerli. Questo progetto ha continuato, si è evoluto, adesso si è trasferito anche a Torino, Milano e Napoli e continua a operare in tutte queste città distribuendo gratuitamente giornali. Noi ci siamo innamorati di loro e quindi abbiamo chiesto, vi andrebbe di trasformare le nostre 12 canzoni in racconti e provare a distribuire questi 12 racconti all'interno di questo, insomma, progetto editoriale, è un libro a tutti gli effetti, gratuitamente a chiunque venga ai nostri concerti, a chiunque venga a ascoltarci suonare per strada, oppure a chiunque lo voglia acquistare anche online col costo di spedizione. E loro hanno accettato, si sono chiusi, come è successo col Decamerone, no? Dentro una stanza, dentro una villetta in Umbria, isolati da tutti, e hanno scritto questi 12 racconti. La cosa molto interessante è che non hanno ascoltato le canzoni. Hanno solo letto i testi e quindi hanno creato le canzoni partendo dal testo, senza ascoltare sì, la musica? Sì, sì. Ah. Esatto, hanno creato questi racconti partendo dal testo ed è stato molto interessante perché si sono creati proprio anche delle aspettative legate alle canzoni che poi alcune volte sono addirittura combaciate con le loro idee, altre volte andavano da tutt'altra parte. Era interessante, deve essere stato interessante per loro. Molto interessante davvero, anche pensare che effettivamente anche senza ascoltarle ci sia stata una, diciamo, una collisione in un qualche modo, no? Nella creazione finale. Sì, sì. E poi ovviamente la musica, la parte musicale ha aggiunto molto anche alla loro percezione ed è interessante a volte provare a staccare questi due elementi. Però anche noi diamo molta importanza a tutto il comparto proprio armonico, soprattutto in questo disco rispetto ai precedenti, perché le canzoni sono molto orchestrali, sono state arrangiate tenendo presente che potessero essere suonate da tantissimi elementi ed è un po' quello che vogliamo fare, le porteremo quest'estate in giro per l'Italia con altre 4 persone, quindi saremo in 8 sul palco e sarà una vera e propria orchestra. Non vediamo okay. L'ora di scoprirlo, infatti, allora questo live, e ti chiederei proprio a riguardo come sarà effettivamente il tour estivo, perché sappiamo che ci sono un po' di date che sono vicino a noi e chiederei quindi se ti va di introdurci un pochino il tour. Certo, allora noi quest'anno suoneremo, adesso se non posso dire, ci sono altre date in arrivo, però dirò quelle che sono uscite, però insomma sappiate che ce ne sono altre che stanno arrivando. Vabbè, partiremo da Roma, da Villa Ada, il 29 giugno, e poi saremo a Bologna il 5 luglio, poi a Padova il 7 luglio, Carroponte, Milano l'8 luglio, poi torneremo a Torino, la nostra città, il 15 di luglio, poi saremo a Genova il 16, il giorno dopo, poi Firenze, Bergamo e Lignano Sabbiadoro e tante altre città che non posso ancora annunciarvi verso il sud. Va bene, allora noi staremo attenti ai social perché tanto poi le comunicazioni principalmente le troveremo lì e ti ringrazio tantissimo per averci raccontato appunto Amore e Rivoluzione, questo nuovo album. Ti chiederei se hai voglia di scegliere una canzone per chiudere questa intervista e se vuoi se hai un messaggio per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Certo, allora innanzitutto amici ascoltatori e ascoltatrici di Radio Città Fujiko, vi invito il 5 luglio, segnatevelo, prendetevi questa prevendita, giusto, perché non si sa mai, al Botanique a Roma, a Bologna, e vi invito ad ascoltare questa che è Filastrocca per Grandi, che abbiamo cantato proprio insieme al coro dell'Antoniano, che è lì dalle vostre parti, e con i quali abbiamo veramente passato un pomeriggio indimenticabile. Quindi vi invito ad ascoltare Filastrocca per Grandi e a seguirci nelle nostre date in tour. Ciao ragazzi! Grazie mille Eugenio, buona giornata. A te, ciao. Okay.